aveva fatto altre mattine prima di allora. Marietta quel giorno saltò giù dalla sua branda. Non c'era molto per colazione a quel tempo. Fuori dalla finestra vide uno stormo di corvi e pensò: chissà se gli uccelli muoiono in volo nell'abbraccio con l'aria. Desiderò correre giù al lago, indugiava rapito pensando al suo fascino, misterioso. Poi uscì di corsa, oltrepassò la villa che porta il suo cognome. Infine entrò in cimitero, pensando: chissà se i morti muoiono una seconda volta. Chissà se muoiono una seconda volta. Nell'abbraccio con la terra. Guardò la chiesa e le immagini degli avi sopra il portale. Recitò una preghiera che gli aveva insegnato suo padre, per poi precipitarsi lungo quella strada che aveva visto passare straccioni e imperatori. Passò accanto a quel che era rimasto del vecchio borgo e pensò: chissà quante volte le case di legno possono morire, chissà quante volte ancora. Nell'abbraccio col fuoco. Appena entrato nel bosco, una rana gli saltellò davanti e fu per lui una strana e piacevole sorpresa, come l'effetto di una risata in chiesa. Oltre le foglie vide la borgata dei mulini. Scendendo, ricevette dal torrente una carezza fresca e gentile. Poi un abbraccio dall'alto.